Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ritrovati, questo è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Oggi parleremo di koala e della tragedia che sta avvenendo in Australia, della mattanza di lepri nel Trevigiano. Vi daremo buone notizie dal mondo venatorio. Parleremo poi di conigli sempre più considerati animali d'affezione e di allevamenti in calo, dell'ultimo rinoceronte di Sumatra. Il tutto squisitamente condito da una nuova ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni e dalla consueta e inimitabile scaletta musicale di Giuseppe Coco. Una puntata come sempre ricca di notizie e di spunti di riflessione. State perciò ancora con noi per i prossimi 30 minuti. Mentre l'Italia va letteralmente sott'acqua, pensiamo a quanto accaduto a Venezia, a Matera, in Liguria dove un altro viadotto è ceduto o a Pavia, in Australia un'ondata anomala di caldo e temperature record stanno causando ingenti danni. A pagarne al momento le conseguenze più gravi sono i koala, uno degli animali simbolo dell'Australia, che stanno morendo in massa. Un'immensa cappa di fumo ha infatti coperto chilometri di territorio nelle regioni orientali in New South Wales e nel Queensland e le comunità locali si sono incredibilmente attivate per soccorrere ed assistere le centinaia di koala ustionati e dislocati dagli incendi. Pensate che grazie a GoFundMe, la più importante piattaforma di crowdfunding, l'associazione Koala Hospital, che si trova a nord della capitale, ha raccolto in pochi giorni circa 700.000 euro. Fondi destinati all'acquisto di installazioni di punti di abbeveramento nelle regioni devastate dalle fiamme. Fondi che serviranno anche alla ricostruzione di habitat sicuri. Si stima che oltre 350 koala siano già morti e che gli incendi abbiano distrutto migliaia di ettari del loro territorio. Il Koala Hospital si sta prendendo ora cura di 31 koala recuperati in diverse località, soccorsi, reidratati e curati con creme e fasciature per le ustioni che hanno riportato. L'ospedale dei koala teme che i koala sopravvissuti nella zona possano morire di disidratazione e incoraggia le persone a lasciare contenitori d'acqua alla base degli alberi. E purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno il koala salvato durante uno di questi incendi lo scorso 21 novembre e che è diventato il simbolo di questa tragedia. Il video in cui si vede una donna correre verso le fiamme e prenderlo disperatamente in braccio per portarlo in salvo hanno letteralmente fatto il giro del mondo. L'animale era stato ribattezzato Lewis dalla sua salvatrice, ma è morto a causa delle gravi e numerose ustioni riportate. Gli incendi, favoriti dal riscaldamento globale ma anche dall'eccessivo disboscamento che hanno devastato l'Australia nelle ultime settimane, sono l'ennesimo colpo alla sopravvivenza di uno degli animali simbolo di questo paese. In queste zone colpite dagli incendi, negli ultimi 20 anni la popolazione dei koala si è dimezzata. Nel continente c'è ora solo il 5% di quanti ne vivevano qui negli ultimi secoli. Quanti altri incendi, alluvioni, eventi catastrofici, tragedie umane e animali ci servono per capire che è l'ora, una volta per tutte, di cambiare rotta? I realize not trying to be cruel, but I just saw you with some other chick with some iced out baby hairs. I'm not trying to be rude, no, and I'm sure she's cool, but I guess you never like my natty roots on my fuzzy baby hairs. E mentre in Australia è scattata la solidarietà per salvare i koala, in Italia si sfrutta il maltempo e le piene dei giorni scorsi per cacciare più animali. Una vera mattanza di lepri si è verificata nel Piave la scorsa settimana. I cacciatori hanno sfruttato la piena dei giorni scorsi per avventurarsi nella zona golenale di Ponte di Piave nel Trevigiano per la caccia alla lepre, che si concluderà a fine mese, in questi giorni. I leprotti, che solitamente si rifugiano all'interno di un boschetto sulle rive del Piave, erano usciti dall'area a causa delle piogge che hanno invaso d'acqua la zona e i cacciatori, come si legge su tribunatreviso.it, hanno sfruttato l'occasione per uccidere le povere bestie che avevano trovato rifugio nei campi adiacenti a causa dell'acqua. A raccontarlo il cavaliere Roberto Zanot, abitante della Golena a Ponte. Due sono stati gli episodi di uccisione di massa, aggiunto. Uno nella giornata di domenica, quando era in vigore l'ordinanza di sgombero degli abitanti della Golena, e il secondo lunedì. Ne hanno uccise decine, un episodio assurdo. Questi leprotti, sopravvissuti all'alluvione dell'anno scorso, dovevano ripopolare la zona. Parliamo di fauna autoctona e molti hanno sfruttato l'occasione per fare una mattanza. Torniamo nel Trevigiano, ma questa volta per darvi buone notizie. Pare che in questa zona, zona strategica per gli allevamenti di conigli, in 5 anni gli allevamenti siano scesi da 100 a 40. Ed uno fra i motivi principali pare essere il mutato atteggiamento del consumatore nei loro confronti, che vengono considerati sempre più animali d'affezione, come sta accadendo da molto tempo in altre parti d'Europa, tenuti in casa come fossero appunto cani o gatti. A rivelarlo non è un blog animalista, ma direttamente il presidente regionale veneto di Confagricoltura, Lodovico Giustiniani, che nel corso di un incontro con il nuovo vescovo di Treviso, Michele Tomasi, avrebbe accolto le sollecitazioni del capo della chiesa trevigiana per una maggiore attenzione al benessere animale. Giustiniani sembra comunque decisamente lontano da aver capito realmente il sentire e la sensibilità delle persone, oltre che delle reali necessità etologiche di questi animali. Il presidente regionale di Confagricoltura avrebbe infatti aggiunto: «Noi in realtà da molti anni poniamo una grandissima attenzione al benessere animale, ma chi vive nella realtà urbana ha una conoscenza sempre meno approfondita delle dinamiche della campagna». Con ogni probabilità la chiusura degli allevamenti di conigli dipende anche dal fatto che questi animali sono particolarmente delicati e chi ne ha avuto uno lo sa benissimo, bisognosi di cure e dunque di investimenti. Quindi gli allevatori preferiscono probabilmente puntare ad animali che garantiscono maggiori profitti. Resta perciò il dubbio di quanto il merito della chiusura di questi allevamenti vada attribuito al reale potere derivante dalle scelte dei consumatori o se sia più legata a questioni economiche di convenienza. Lo scorso anno, è comunque bene ricordare, è stata promossa da CWF e da altre associazioni la campagna End the Cage Age, iniziativa dei cittadini europei, LICE, per raccogliere le firme contro l'uso delle gabbie negli allevamenti e di cui i conigli sono tra gli animali allevati più numerosi e soggetti a detenzione in gabbia. Place a bet, name my name, color your hair, or color your eyes. Parliamo ancora di allevamenti e del diffusissimo uso di antibiotici. Nonostante un recente trend di riduzione, le vendite di antibiotici destinati agli allevamenti restano estremamente alte in Italia. Secondo i dati riportati dall'ultimo report dell'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, il nostro paese infatti è secondo solo a Cipro. Anche se l'uso sta diminuendo, rimane comunque 2,5 volte più alto della media europea e fra 20 e 50 volte più alto di paesi come la Svezia e l'Islanda. A lanciare l'allarme è ancora una volta CVF Italia Onlus, che ricordiamo non essere un'associazione animalista antispecista, ma un'organizzazione che si occupa di benessere degli animali d'allevamento. Questo mostra, secondo la CVF, che nel nostro paese è ancora scarso lo sforzo per limitare l'uso dei farmaci fondamentali negli allevamenti. In Italia quasi il 70% degli antibiotici venduti sono destinati agli animali negli allevamenti. Farmaci che vengono spesso somministrati anche a scopo preventivo, nonostante gli animali non siano malati e nonostante esista una normativa che vieta l'uso degli antibiotici negli allevamenti. La proposta di CVF consisterebbe in una radicale inversione di rotta verso sistemi di allevamento più rispettosi del benessere animale e quindi della salute delle persone. Anche noi della redazione di Restiamo Animali siamo per una radicale inversione di rotta, dove l'animale però non sarà più visto come cibo, ma come essere senziente, come un essere vivente che ha il diritto di vivere la sua vita. Come questa inversione di rotta vada concretamente realizzata, ancora purtroppo non lo sappiamo, ma va immaginata, sognata e prima o poi realizzata. E anche questa settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni si è ingegnato a trovare una ricetta collegata alle notizie della puntata di oggi. Vediamo cosa ci propone. E vi ricordiamo che tutte le sue ricette, così come tutte le nostre puntate, sono ascoltabili e scaricabili in podcast andando sul nostro sito www.restiamoanimali.it. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. И если не отдохнешь, недремлющие химеры сожрут твой мозг, и все утонет в хаосе. Это не важно. Oggi il mio proposito era quello di darvi una tipica ricetta australiana molto golosa, in omaggio al koala salvato dall'incendio e alla sua salvatrice. Purtroppo, mentre sono intento a scrivere la ricetta, leggo che Lewis, il piccolo koala, non è sopravvissuto alle ustioni. Ma tanti sono gli animali che rischiano la vita nell'emergenza incendi che ha colpito l'Australia. E fortunatamente, numerosi sono anche i generosi sforzi per salvare i sopravvissuti. E questa ricetta è dedicata a tutti loro. Gli ingredienti per 20 dolcetti per gli Australian Lamingtons sono 250 g di farina tipo 0, 25 g di fecola di patate, 25 g di amido di mais, 250 ml di acqua fava, 20 ml di olio di semi di girasole, 250 g di zucchero di canna, della vaniglia, un pizzico di curcuma, 8 g di crema or tartaro, un pizzico di sale, 250 g di marmellata di mirtilli rossi, 200 g di cioccolato fondente, 160 ml di acqua e del cocco disidratato in scaglie. Montate l'acqua fava a neve ferma con l'aiuto di una planetaria o di fruste elettriche. A parte, unite la farina, la fecola, l'amido di mais, l'olio di semi di girasole e 150 g dello zucchero di canna che avrete precedentemente polverizzato con un mixer o con un macina spezie. Mescolate bene il tutto e con l'aiuto di una spatola di silicone o di legno incorporate l'acqua fava montata con dei delicati movimenti circolatori in senso orario, cercando di far incorporare aria all'impasto. Unite la vaniglia, un pizzico di curcuma e uno di sale ed infine il crema or tartaro. Ungete e infarinate una teglia rettangolare di circa 30 cm x 20. Versate il composto e fate cuocere in forno statico già caldo a 180 gradi per 25-30 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare molto bene. Adesso dividete il pan di spagna e farcitelo con la marmellata di mirtilli rossi. Tagliate il tutto formando dei rettangoli. Da questo impasto dovreste ottenere 15-20 pezzi. Mettete i rettangoli a riposare in freezer per circa 30 minuti. Nel frattempo fate sciogliere i restanti 100 g di zucchero di canna in 160 ml di acqua. Quando lo zucchero si sarà ben sciolto, aggiungete il cioccolato fondente e lasciate ritirare per pochi minuti mescolando con una frusta. Lasciate riposare 15 minuti. Quindi recuperate i dolcetti e con l'aiuto di uno stecco di legno da spiedini o con una forchetta, immergeteli nel cioccolato. Passateli nelle scaglie di cocco e sistemate in un vassoio. rieccoci a parlare di caccia, ma oggi sono buone notizie. Cominciamo con una notizia che arriva da Rezzano, dove nel giugno scorso, in provincia di Brescia, i carabinieri forestali avevano fermato un uomo che a bordo della sua vettura nascondeva alcuni scatoloni contenenti ben 320 uccelli tra tordi e cesene, appena sottratti ai nidi. Pochi giorni fa si è tenuta l'udienza finale al Tribunale di Brescia e il cacciatore è stato riconosciuto colpevole di uccellagione e quindi di bracconaggio. È stato condannato a 4 mesi di arresto, al risarcimento della parte civile e al pagamento delle spese processuali. Inoltre non potrà più ottenere la licenza di caccia per i prossimi 10 anni. A Dongo, poi, nel Comasco, gli uomini della polizia provinciale hanno arrestato 2 cacciatori di Cremia, accusati di bracconaggio con armi detenute illegalmente. A casa dei 2 cacciatori, nella baita che utilizzavano, le forze dell'ordine hanno trovato un vero e proprio arsenale: 4 carabine detenute in modo abusivo, 2 con matricola brasa e quindi non a norma, silenziatori, ottiche speciali di puntamento e visori notturni per la caccia anche di notte. E poi giustizia è fatta per il lupo che nel novembre del 2017 in provincia di Rimini, a Coriano, era stato ucciso, brutalmente bastonato e poi appeso per le zampe a una pensilina. Pochi giorni fa i 3 responsabili sono stati finalmente condannati dal Tribunale di Rimini. Si tratta di una delle prime sentenze di condanna in Italia per l'uccisione di un lupo. Schiaccianista, no wind chimes strike, your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare, like an omen, in the day, in the sunlight, dreaming in its head, aliveness, is a projection. Your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare strikes. In the day, in the sunlight, dreaming in a tent. È ufficialmente estinto il rinoceronte di Sumatra in Malesia. L'ultimo esemplare si chiamava Iman e da quando si era ammalata di cancro tutti avevano fatto il tifo per lei. Con la morte di questo esemplare, una femmina di 25 anni, il rinoceronte di Sumatra è definitivamente scomparso dalla Malesia. In tutto il mondo restano meno di 100 esemplari, secondo alcune stime soltanto 30, e vivono tutti sparpagliati sull'isola dalla quale prendono il loro nome, in Indonesia. È proprio la frammentazione della popolazione di rinoceronti di Sumatra, oltre al bracconaggio e alla scomparsa del loro habitat, tra le cause principali del rischio di estinzione per questi animali. Chiudiamo la puntata comunicandovi un'importante novità che arriva dalla Regione Lazio, dove il nuovo testo unico del commercio del Lazio introduce per la prima volta in Italia uno specifico capitolo dedicato a un'apposita disciplina in materia di commercio di animali. Ecco alcune novità: divieto di vendita degli animali su aree pubbliche, stop alla loro esposizione in vetrina o all'esterno dei negozi, divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali a meno di presentazione di certificato medico veterinario, nuovi requisiti relativi agli ambienti di detenzione. Per la prima volta in Italia vengono presi in considerazione gli animali invenduti che dovranno essere affidati privilegiando l'adozione gratuita. Sanzioni fino a 30.000 euro, confisca degli animali e chiusura dell'attività commerciale per i contravventori. Come si legge dallo stesso comunicato LAV, resta ferma la contrarietà dell'associazione, ovviamente anche la nostra di Restiamo Animali, alla vendita di animali, ma questa legge consente di introdurre importanti disposizioni volte a tutelare gli animali da affezioni coinvolti nelle attività commerciali, con pene severe per i contravventori. Un risultato importante si legge sul comunicato della LAV, che pone la regione Lazio all'avanguardia nel panorama normativo nazionale e regionale. Chi volesse approfondirne di più e leggere le novità punto per punto, vi invitiamo a consultare il sito www.lav.it. Quest'ultima notizia è davvero tutto, almeno per questa settimana. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zonone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 513 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.